Il vecchio e l'asino, da Favole e Dicende La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Stando sull'asino, vedendo un vecchio un prato pieno d'erba tenera, lasciò che l'asino entrasse e pascolasse. E l'asino, saltando e ruzzolando e sgambettando, mangiò dell'erba fino a crepapancia. Ma sul più bello, ecco il padron del campicello. Allor spronandolo con le calcagna per la campagna, comanda il vecchio: andiam, fuggiamo. Perché fuggire? Dice la bestia. O c'è pericolo ch'abbia a portare in groppa un doppio basto? Non dico questo. E allora, alla buon'ora, lascia ch'io finisca questo pasto. Il padrone è un nemico certamente, ma è cosa indifferente, tel dice in buon volgare un asinello, servir a questo o a quello. Fine della favola. Il vecchio e l'asino. Questa registrazione è di dominio pubblico.